Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna naturalmente e potete ascoltarci anche tramite la nostra app che potrete tranquillamente scaricare gratuitamente sul nostro sito radiocittafujiko.it. E come ho già detto, mi è scappato, Città Fujiko Live Club è la trasmissione che sta iniziando di nuovo in voce, di nuovo dal vivo dopo un paio di settimane di riposo da parte di chi vi sta parlando e come al solito musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche. E come sempre cominciamo con una novità, novità che ha qualche mese di vita ma che non è mai stata suonata in questa trasmissione. Questo è il senso della novità per quel che mi riguarda. Magari questo mega cofanetto che vi propongo oggi come novità l'avete già sentito, ascoltato, consumato insieme a qualche collega di radio in altre trasmissioni, ma per la mia trasmissione è una novità. Sto parlando di un mega cofanetto, 8 CD che compongono un box set molto accattivante. Si chiama Mothers 1971. Avrete già capito che sto parlando di Frank Zappa e delle sue Mothers of Invention. Il cofanetto, come dicevo, 8 CD, racchiude 3 concerti, uno del Fillmore East del giugno del 1971 naturalmente, poi uno di Harrisburg in Pennsylvania del 3 giugno e un altro del Rainbow Theatre di Londra del 10 dicembre dello stesso anno, a concludere quell'anno. E sono 8 CD tutti molto interessanti, anche se a volte i due ex Turtles, Mark Wallman e Walt Kylan, due cantanti e performers verrebbe da dire, esagerano un po' troppo con le loro gags, ma quando la musica parte è veramente musica notevole. Del resto i musicisti che compongono e hanno composto, sono state componenti delle Mother of Invention, sono sempre stati grandissimi. Ne cito solo uno perché è uno dei miei favoriti, il batterista che si chiama Isley Dunbar. Fra parentesi, è già in programmazione, anzi verrà pubblicato il prossimo 3 marzo un altro cofanetto di Frank Zappa, stavolta riguardante gli anni 80, con una registrazione effettuata al Mad Club di Monaco in Germania. Quindi diciamo che anche quello sarà presto una delle novità che vi proporrò. Ma andiamo subito con la musica dopo questa introduzione e andiamo col concerto del Fillmore. Questo in particolare è il primo show del 6 giugno 1971 all'epoca al Fillmore, era la fase finale della vita di questo locale storico. All'epoca c'erano due show, uno al pomeriggio tardi, diciamo verso le 6, e l'altro un po' più tardi la sera verso le 8:30, 9. E in questo box set, non so come si dica, ottuplo CD, appunto ci sono estratti da tutti gli show del Fillmore e anche quello del Remo che vi ho detto prima. Andiamo con questa registrazione del Fillmore ed è l'inizio del concerto del 6 giugno, il primo show. C'è all'inizio una piccola improvvisazione un po' elettronica, poi parte uno dei grandi classici di Frank Zappa che si chiama Peaches and Regalia. uno dei grandi classici nella discografia, nel songbook di Frank Zappa, si chiama Peaches and Regalia, introdotto da un'improvvisazione un po' cacofonica volendo, in apertura di quel concerto del 6 giugno 1971 al Fillmore East, che è contenuto nella novità che vi propongo quest'oggi, mega cofanetto di 8 CD che si chiama The Mothers 1971. Fra parentesi, quasi in contemporanea a questo cofanetto ne è uscito un altro che riguarda un concerto effettuato in una località che si chiama Erie. È un concerto, anzi sono due a dire il vero, è un cofanetto anche questo con 6 CD, non 8, ma lo strano, le cose della discografia, dell'industria discografica, sono veramente particolari, perché il cofanetto che vi propongo, Mothers 1971, 8 CD, costa la metà di quell'altro che invece sono solamente 6 CD. È appunto una cosa particolare. Comunque questo cofanetto di 8 CD, lo ripeto, The Mothers 1971, potete trovarlo a un prezzo veramente ragionevole, e quindi se amate la buona musica fatelo vostro. E non a caso ho scelto questa registrazione del Fillmore per iniziare la trasmissione di oggi e per instradare, per così dire, la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi, con registrazioni effettuate al Fillmore, questo mitico locale, Fillmore East, mitico locale che faceva il paio con il Fillmore West, che era a San Francisco. Naturalmente Fillmore East a New York City, sulla Seconda Avenue, nell'East Village. È stato aperto nel marzo del 1968 e chiuso nel giugno del 1971, perché le spese dei gruppi erano molto aumentate e la capienza del Fillmore non era tantissima, al di là dei due concerti a sera non si poteva fare molto di più. Comunque l'edificio fu costruito nel 1926 e tutti i concerti erano accompagnati da una serie di diapositive, chiamiamole così, liquide, che facevano parte del Joshua White Light Show, che ha accompagnato tutte le band che hanno suonato in questo locale nel corso degli anni. E ci ascolteremo alcune di queste band, alcune band britanniche, che hanno suonato al Fillmore East, che hanno registrato al Fillmore East di New York City. Chiaramente, come vi dicevo, Fillmore East ha chiuso nel giugno del 1971, quindi stiamo parlando di vera e propria archeologia musicale. E cominciamo con una registrazione del novembre 1970, un doppio CD che è la Deluxe Edition di un classico dei Traffic, si chiama John Barleycorn Must Die. Grandissimo, bellissimo, super album che acquista ancora maggiore valore con la ristampa, appunto, che comprende un secondo dischetto con parecchi pezzi dal vivo, appunto, registrati al Fillmore East. Fra questi pezzi c'è quello che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama 40,000 Headmen. Distant shore, so lighting up a cigarette, I followed in pursuit and found a secret cave where they obviously stashed the loot. than swine. Laying down my treasure before the iron gate, quickly rang the bell, hoping I hadn't come too late. Then someone came along and told me not to waste my time. And when I asked him who he was, he said, just look behind. But I turned around and 40,000 headmen bid the dead. Firing 20 shepherds, each man never really heard. But luckily for me, they have to stop and then reload. And by the time they're running, I'm heading down the road. Heading down the road. Strange feeling tonight. Change it all. Change it all. Thank you. E dopo i Traffic con la loro 40,000 Headmen, un brano scritto da uno dei Traffic, Dave Mason, e originariamente interpretato dai Traffic. Questa invece è la versione di Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, un grande grande album che è stato registrato in quel del Fillmore East di New York City, e che comprende anche un film molto molto interessante che vi consiglio di cercare, perché è esplicativo di quello che era questo carrozzone di Mad Dogs and Englishmen. Nel 1971 gli Humble Pie pubblicarono un doppio long play che si chiama tuttora Performance Rocking the Fillmore. L'album è stato poi ripubblicato in versione completa, 4 CD, nel 2013 da questo ottimo, anche questo in questo caso, box set. Vi faccio ascoltare una registrazione del maggio del 1971, si chiama Four Day Creep, loro sono Humble Pie. Make me my head. On drums, Mr. Rick Lee. On organ, Mr. Chick Churchill. On bass guitar, Mr. Leo Lyons. On lead guitar and vocals, Mr. Alvin Lee, 10 years after. Thank you, thank you. This is a new single, Love Like a Man. We'll be right back. chiama Love Like a Man, questo brano che è il brano di apertura di un doppio dischetto molto bello che si chiama Live at the Fillmore East. È un doppio dischetto ad opera dei Ten Years After, che all'epoca erano sulla cresta dell'onda dopo il grande successo di Woodstock. L'album, come vi dicevo, è stato registrato nel 1970, in febbraio per la precisione, quindi fra un po' sarà oggetto anche magari di Recorded Today, però è stato pubblicato solamente nel luglio del 2001. E un'altra grande band che molti non ricordano più. Una band, anche questa, poco ricordata, quella dei Faces. Fecero una serie di album notevoli prima di sciogliersi, anzi, a dire il vero, fu Steve Marriott, che ci siamo ascoltati prima con gli Humble Pie, che se ne andò dai Faces, appunto per fondare gli Humble Pie insieme a Peter Frampton. Siccome lui era il leader, gli altri rimasero un po' disorientati, per usare un termine corretto, e reclutarono un cantante dal nome Rod Stewart e un chitarrista dal nome Ron Wood, quindi fondarono i Faces. E quindi hanno pubblicato questo album che si chiama Long Player, una serie di album di brani in studio e due brani dal vivo. Mi sono un po' incasinato fra Faces e Small Faces. Comunque, il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover, un pezzo di Paul McCartney, si chiama Maybe I'm Amazed, loro sono Faces. Well, no, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go. baby, won't you try to understand? We'll be right back. a concludere questa prima parte di Città Fuggisco Live Club di oggi, 15 febbraio 2023. Sono arrivati i Nice, la band che portò alla ribalta Keith Emerson col suo organo favoloso. Il brano che ci siamo ascoltati è una cover di un brano di Bob Dylan, si chiama Country Pie, ed è tratto da un doppio dischetto che si chiama Live at the Fillmore East, guarda caso, December 1969, perché è stato registrato appunto nel dicembre del 1969 nel locale che è stato protagonista della prima parte di questa trasmissione. E ci sarebbero ancora alcune cose da proporre registrate da band britanniche in quel locale, cito solamente gli immancabili, oserei dire King Crimson, ma questa sarà magari per un'altra volta. A questo punto si è conclusa la prima parte di Città Fuggisco e Club di oggi. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and all the time, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and it's my mind, imagine how the world could be, so goodbye, so happy together. Thank you very much for coming to our concert tonight. Good night. Seconda parte di Città Fuggisco Live Club, che inizia naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, Frank Zappa, le Mothers of Invention. Siamo a un cofanetto con 8 CD, molto molto interessante, anzi molto bello, che consta di 8 CD, 3 concerti proposti in maniera integrale. E questo brano, come molti di voi ricorderanno, era un brano che è stato poi tradotto e cantato anche in italiano. Originariamente era un brano dei Turtles, e vi ho detto in precedenza, all'inizio della prima parte, che in quel momento facevano parte delle Mothers of Invention anche Orrick Hyland e Mark Wallman, che erano due ex membri dei Turtles, e quindi in finale di concerto veniva proposta questa Happy Together, che è una degna conclusione di un grande concerto. E come sempre nella seconda parte di Città Fuggisco Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose registrate in questa giornata, e ancora una volta il criterio di scelta per proporvi i brani è quello di un brano per ogni decade. Mentre Frank Zappa e i suoi stanno casseggiando. Comunque, andiamo subito a iniziare dal 1973, una band che è rimasta sconosciuta anche sui tempi, malgrado avesse parecchie buone cose nel proprio repertorio. Purtroppo un sacco di cambiamenti di personale fecero sì che gli Stockbridge, sto parlando di loro, non fossero nel gotha del progressive britannico di quegli anni. Infatti loro arrivavano da Bristol e sono stati attivi dal 1969 al 1976 nella loro incarnazione primaria, anche lì con molti cambiamenti di personale, e poi si sono riformati nel 1999 e sono arrivati fino al 2015 per poi sciogliersi definitivamente. Tra le mani ho un dischetto della serie BBC Radio 1 Live in Concert, la trasmissione radiofonica che la BBC trasmetteva, se ricordo bene, ogni sabato per proporre concerti delle band prevalentemente britanniche, ma ci sono anche degli americani di mezzo e anche un tedesco, gli Hammond II, ma questo è un altro discorso. Andiamo con questi Stockbridge che sono compresi in questo dischetto appunto con registrazioni effettuate nel 72 e nel 75, ma quelle che interessano noi in particolare è quella del 15 febbraio 1973. Il pezzo si chiama Syracuse the Elephant, loro sono Stockbridge dal 1973 appunto. Siamo nel 1973, esattamente il 15 febbraio, il Progressive in Gran Bretagna sta andando alla grandissima, ma non ci sono solo i nomi storici, Yes, Genesis, Gentle Giant, quelli che tutti conosciamo, ci sono anche le cosiddette seconde linee e questi Stockridge facevano parte di queste seconde linee, anche se in realtà avrebbero meritato molto più successo, però come vi ho detto ci sono stati talmente tanti cambi nella formazione che non c'è stata una sequenza logica nelle loro pubblicazioni e il pubblico era un po' disorientato, così non hanno mai avuto un grandissimo successo. Qui appunto eravamo insieme alla BBC, l'ente radiotelevisivo britannico, che ha sempre avuto un occhio molto aperto per quel che riguardava la musica rock, e appunto questa trasmissione che si chiama BBC Radio One Live in Concert ogni settimana proponeva concerti di ogni genere, di tutti i musicisti, sia britannici, come dicevo, che americani, che tedeschi. Il brano che ci siamo ascoltati, registrato al Page Theater di Londra, si chiama semplicemente Syracuse the Elephant. E rimaniamo insieme a questa benemerita serie che si chiama appunto BBC Radio One Live in Concert. Sono uscite diverse pubblicazioni, molte a dire il vero, di questa serie, che purtroppo poi si è interrotta, evidentemente le vendite non erano un granché. Comunque rimaniamo insieme appunto alla BBC e a una band che si è chiamata per un solo album Hunter Ronson Band. Naturalmente avrete già capito, Ian Hunter e Mick Ronson hanno collaborato tantissime volte. Mick Ronson, ex chitarrista degli Spiders from Mars di David Bowie, ha suonato nella band di Ian Hunter tantissimo, praticamente fino alla sua morte, e però non è mai stato accreditato come co-titolare della band, solo in questo caso, Hunter Ronson Band. Il concerto è stato registrato al Dominion Theatre di Londra e racchiude naturalmente tutti i grandi successi di Ian Hunter, sia solo che con i Mod e Opel, e alcuni brani scritti in duo appunto da Hunter e Ronson. Però noi rimaniamo nel classico, un classico di Ian Hunter che si chiama Bastards, 15 febbraio 1989. Is there any songwriters among us? So we're all songwriters, right? Two things you don't do if you're a songwriter. The first thing is you never write a song about your old lady. And the second thing is, if you do, you lie. This next song cost me 3 years in total purgatory. I'm glad to say we came out the other end. Well, a lot of ammo over there. Yes? How you doing? I'm doing extremely well, thank you. And you? Yeah, he says we're glad to be back. We'll be right back. Grandissimo personaggio Ian Hunter, già con i Moody Opel, poi anche in solitario. Qui invece l'abbiamo in compagnia di Mick Ronson, oserei dire la spalla perfetta, il gregario perfetto. Questo non è assolutamente una cosa riduttiva o negativa, ma essere un gregario perfetto è una cosa non molto facile, ma che esalta quello che è il leader della band, che senza nulla togliere appunto a Mick Ronson è Ian Hunter, anche se, lo ripeto, per la prima volta e unica nella discografia dei due, questo dischetto BBC Live in Concert è attribuito alla Hunter Ronson Band. Il pezzo che ci siamo ascoltati, forse avrete capito, si chiama Bastard. da Londra, dove sono stati nelle ultime due occasioni. Andiamo invece in Giappone, ma con una band britannica che viene esattamente da Glastonbury, la sede del famosissimo festival. Loro si chiamano tuttora Reef, anche se sono durati una decina d'anni, dal 93 al 2003, poi si sono sciolti, poi sono riformati nel 2010, sono arrivati fino ai nostri giorni. Una band assolutamente normale, oserei dire fra virgolette, ma che ha un cantante superlativo, si chiama Gary Stringer, ha una voce che ricorda moltissimo quella di Rod Stewart, ha una voce veramente, veramente notevole. Qui abbiamo un extended play che è stato registrato al Liquid Room di Tokyo il 15 febbraio del 1996. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Repulsive, loro si chiamano R-E-E-F, Reef. It's what I would give you for free. for what we are, hope and pray that we must give each other a little love to wind died down. feet in this cursed ground. When I die, let me fly. I'm nothing but a sound. Don't bury me in this cursed ground. Mino wind died down. The Mino wind died down. The Mino wind died down. Mino wind. The Mino wind died down. I fratelli Luther e Cody Dickinson, figli di un grande artista che rispondeva al nome di Jim Dickinson, naturalmente essendo fratelli hanno suonato insieme sin dalla nascita, ma hanno ufficializzato la propria band con il nome North Mississippi All Stars solamente nel 1996, inizialmente con un omone grande grosso che suonava il basso, poi a volte suonano in duo e adesso nell'ultimo album sono diventati un quartetto. Una grande band quella dei North Mississippi All Stars, li abbiamo visti in concerto, in un grande concerto al Castel San Pietro in Blues Festival del 2007, e hanno lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che li hanno conosciuti, perché erano due ragazzi veramente molto molto in gamba e molto molto alla mano. Il brano che ci siamo ascoltati è tratto da un doppio dischetto che si chiama Boulder Rado, perché è stato registrato al Fox Theater di Boulder in Colorado il 15 febbraio del 2008, e il pezzo si chiama Mean Old Wind Die Down. L'ultima cosa di Ricordi Today di oggi arriva dal 2013, una band che arriva da Gainesville, Florida. Stanno insieme dal 1993 e hanno un buon seguito, grande seguito soprattutto per i concerti nell'area del sud degli Stati Uniti. Hanno pubblicato diversi album live, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama 20 Stages, perché sono 20 pezzi registrati ognuno in un posto diverso. Quello che ci andiamo ad ascoltare è il primo di questi 20 pezzi, è stato registrato il 15 febbraio 2013, come vi dicevo, in quel di Georgia Theater di Athens in Georgia, la città diventata famosa per essere stata la patria di R.E.M. Loro si chiamano Sister Hazel, sorella Hazel, e il brano che apre questo dischetto e che ci andiamo ad ascoltare si chiama Shame. E come ha detto il cantante, Sister Hazel from the Sunshine State, che sarebbe la Florida negli Stati Uniti, come sapete meglio di me, ogni stato ha un proprio nomignolo e quello della Florida è appunto Sunshine State. Sister Hazel, ce li siamo ascoltati in questa Shame, il brano di apertura di un doppio dischetto che comprende 20 brani registrati in 20 posti diversi, su 20 palchi diversi, appunto si chiama 20 Stages, e questo in particolare ad Athens, Georgia, il 15 febbraio del 2013, concludeva Recorded Today di oggi. Last I was starfish on the ground. A concludere invece la trasmissione di oggi, Città Fujiko Live Club, ci pensa, c'è stato un piccolo problema con il lettore CD, comunque dovrei aver risolto il problema, ci pensa alla novità che vi ho proposto quest'oggi, Mr. Frank Zappa, l'ennesimo cofanetto che è uscito negli ultimi anni, ne uscirà un altro anche fra poco, e si chiama The Mothers 1971, registrazione effettuata nel 1971, Frank Zappa insieme alla sua band. Il brano che conclude quest'oggi si chiama Tears Began to Fall, e naturalmente prima però vi voglio ringraziare per l'ascolto e ricordarvi che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club per ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio come dicevo per l'ascolto, vi lascio in compagnia di Frank Zappa, ciao a tutti da Nevio.